Se anche col piede che va sulla punta e piega la ginocchia. Rifai dal centro della testa. Incastra dentro il